E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Zanzara che arriva ogni estate in città, e la zanzara che punge e poi se ne va. Si chiama tigre oppure si chiama zezè, ma questo insetto che noia che è. E la zanzara che succhia il tuo sangue va via, e la zanzara che... Eccoci qui, caro Parenzo, in diretta da Atene, Grecia, per il grande evento che segnerà la storia dell'Europa. Io sono là dove la gomma tocca l'asfalto. Cosa vuol dire? Spiega ai nostri ascoltatori questa prima stupidaggine delle 18:34. Subito un'apertura così. Spiegala, sì, caro. Il grande aforisma di Parenzo dalla Grecia. Io sono là dove la gomma tocca l'asfalto, nel cuore pulsante, dove tutto accade, dove tutto si decide, mentre tu sei lì ad interrogarti sull'omosessualità dei calciatori. Tregua sai, finché non punge lei tranquilla non sarà. Beh, per chi se lo fosse perso ieri sera che c'era la partita, c'è stata la grande confessione di Clemente Mastella. Ecco. Le grandi confessioni dei politici. Sono arrivato vergine al matrimonio. Ti posso dire una cosa? Io sono arrivato vergine al matrimonio. Adesso voi mi dite questa cosa qua. No, non ci credo. A quanti anni si è sposato? No, questa è la già io mi sono sposato, sì, l'ho detto, sì, io sì. Ho 28 anni, quindi. Lei fino a 28 anni? Niente. Hai capito, sì? È un po' come Parenzo, è un po' come Parenzo. Anche Parenzo, lo dico agli ascoltatori che sono in collegamento con la zanzara, è arrivato vergine al matrimonio. E io ti querelo per diffamazione. Oh oh oh, la società civile, la società civile, sì, ti sento molto bene, meglio di quando sei in Italia. La società civile. Allora, tu dimmi una cosa, perché? Perché io devo ascoltare questa parola, devo sentire questa parola, il Partito Democratico, un grande partito, un partito che ha delle risorse di uomini. Chiede per la RAI il contributo, chiede dei nomi ad alcune associazioni della cosiddetta società civile. Io vado ai matti, vado al manicomio. Innanzitutto la società civile non esiste. Bravo. Cioè, cos'è la società civile? Perché c'è anche la società incivile, allora. Sì, appunto, cos'è la società civile? Cioè, la zanzara è la società incivile, ad esempio. Sì, beh, secondo alcuni sì, certo. Questo sicuro. Però devi sapere, caro Parenzo, che ci sono delle riunioni in atto di alcune associazioni, tra cui Se non ora quando... L'associazione Se non ora quando, che si occupa delle questioni della donna, non torniamo su queste vicende per carità di patria, l'associazione Se non ora quando si sta riunendo per decidere se dare a Bersani dei nomi per la RAI, per il CDA della RAI. Io vado al manicomio. Siamo alla follia. Di Pietro, bene la società civile in RAI. Io ho condiviso la proposta di Bersani di chiedere alle associazioni rappresentanti della società civile di indicare loro i nominativi. In questo momento l'Italia dei Valori, insieme al Partito Democratico, si è messa a disposizione chiedendo, anzi ho fatto anche di più, non solo ho chiesto alle associazioni a cui si è rivolto Bersani, ma ho detto che devono valere anche le candidature indipendenti senza presentate alle associazioni e tutte devono essere valutate. Ma io voglio capire una cosa, se le società, la società civile viene rappresentata da queste associazioni, i partiti da che cosa sono, di che cosa sono espressioni? No, ma cioè, a parte dei marziani, questo... di che cosa? Stava a Sandir. Ma poi queste associazioni di cui stiamo parlando sono, sì, associazioni benemerite, meravigliose, bellissime, che abbraccio forte. Beh, dipende naturalmente. Tutte, no, ma sono bellissime. Vabbè, allora, sono, allora? Però sono tutte associazioni di area, cioè sono culturalmente... Ma a parte quello, ma non mi interessa quello. Anche, il punto fondamentale è un altro. Tu lo sai l'elenco di associazioni che si sta occupando di queste candidature per, su cui poi Bersani dovrà riflettere? No, ma io mi... Cioè, ci sono delle cose incredibili, ci sono delle associazioni, c'è anche, non so chi è che c'è, le ACLI... è una cosa pazzesca, anche. Una cosa incredibile. Nessuno tocchi Caino, c'è? No, no, ma perché non dovrebbe esserci anche nessuno tocchi Caino? Infatti. Però una delle grandi notizie della giornata, caro Parenzo, è Feltri, Vittorio Feltri. Lo ha chiamato Alfano. No. Senti. Angelino. Senti, senti. Per un rilancio del Popolo delle Libertà, anche con candidature nuove di soggetti che non hanno avuto militanza politica. Io per esempio poco fa ho chiamato il direttore Feltri, ho chiamato Vittorio Feltri per invogliarlo a scendere in campo, perché abbiamo tutti l'orgoglio di poter dire che tante persone, anche tra quelle che non hanno svolto una militanza politica ufficiale, possano competere in una grande gara che sarà sulle idee e sull'entusiasmo. Allora, ho chiamato Feltri per le primarie, ma scusa, è come se negli Stati Uniti uno che sicuramente concorrerà alle primarie del PDL, un Romney, non lo so, una cosa di questo tipo, cioè del Partito Repubblicano, chiamasse un suo poi rivale successivo e dire: scusa, vuoi essere, vuoi partecipare alle primarie? Ma che significa? Ma che vuol dire? Siamo in Italia, Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È tutto così. E però il direttore del giornale, direttore editoriale del giornale, Vittorio Feltri, la sera prima cosa aveva rivelato alla Zanzara? Cosa aveva rivelato alla Zanzara? Che i parlamentari sono degli straccioni perché guadagnano troppo poco, senti. Il mio reddito annuale lo denuncio regolarmente, quindi non ne faccio mistero, sono 700.000 euro l'anno. Non posso permettermi il lusso di fare il parlamentare perché ho l'esigenza del superfluo e quindi non posso rinunciare all'attuale reddito per andare a prendere con la straccia di indennità parlamentare. Quindi sono quattro straccioni sti deputati, allora, direttore. Sì, assolutamente. Beh, come premessa non c'è male per entrare in Parlamento, E poi dice: però, se l'alternativa a entrare in Parlamento, se l'alternativa a entrare in Parlamento dovesse essere quella di andare ai giardinetti con i nipotini, oppure stare dietro a mia moglie con il al supermercato, col carrello della spesa, allora è meglio suicidarsi, è meglio andare in Parlamento. Soprattutto sento il bisogno di non andare ai giardini pubblici a leggere i giornali, preferisco farlo. E quindi è piuttosto che andare a casa e poi andare a spingere il carrello della spesa al supermercato su ordine di mia moglie, andrei a fare persino il parlamentare, anche solo per pigiare i bottoni, pur di non tornare a casa. Questo d'accordo, ma ci sono anche i nipotini però. Ma quelli non li voglio neanche vedere. Mi piacciono molto i nipotini, ma per 3, 4 secondi, 5, poi no, mi sparo piuttosto. Piuttosto mi sparo! Cosa? Cari ascoltatori, cari ascoltatori della Zanzara, è un Feltri in grandissima forma, io faccio il tifo per lui, naturalmente, no, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa voglia fare. Abbiamo già un ospite pronto. Ai bambini, aspetta, ai nipoti gli fa leggere i titoli, capito, del giornale. Dici no, ma quando sì, per addormentargli dice: è stata la culona. I bambini, giustamente, che fanno i bambini? Non il signor Briatore, questa mattina ospite di Alessandro Milan. Bravo, Briatore, che abbandona il billionaire. Mi piace molto Milan. E siccome lo criticano molto su Repubblica, non solo su Repubblica, però poi lo ascolto sempre Milan. Ho capito, delle critiche sferzanti su Repubblica. Se la prende con Francesco Merlo dicendo che è una fighetta radical chic che non ha mai creato lavoro. No, vabbè. Sì, sì, così. E poi con De Benedetti, casa in Sardegna e registrato a San Vittore. Senta. Il signor Merlo dovrebbe occuparsi del suo gruppo. De Benedetti ha una casa in Sardegna, credo che l'abbia venduta per 107 milioni, ha una barca, però De Benedetti la barca è un santo. De Benedetti, il gruppo, ha un debito, è stato condannato di secondo grado per evasione fiscale per 235 milioni. De Benedetti ha ammesso di aver ricevuto, di aver pagato tangenti quando era l'Olivetti alle Poste, credo che sia anche stato registrato a Rebibbia, poi andato ai domiciliari. Registrato a Rebibbia? Beh, adesso Briatore giustizialista ce lo potevamo anche risparmiare. Ecco, bravo, bravo. Siamo qui, abbiamo Pensi appena iniziato. Abbiamo appena iniziato. In Italia, il signor Briatore. 800-24-00-24 in diretta da Capri. Capri. Diller Bordon, un grande ritorno, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Benissimo. Come Capri. Mai a Capri? Scusi, in che albergo sta a Capri innanzitutto? Al Tiberio Palace. Quante stelle? Bravo. 5. Come mai 5 stelle? 5 stelle di albergo a Capri. Ho cercato uno che ne avesse 7, ma non ci sono ancora. Non ce l'ha fatta. Però no, scusi, no. Albergo a 5 stelle e lei praticamente è entrato nel Movimento 5 Stelle. Scusi un attimo, ma lei ormai fa parte, come dire, no? È ormai parte del Movimento 5 Stelle, Villers Bordon o no? Ma assolutamente no, ma non perché non mi piace il Movimento 5 Stelle, ma semplicemente perché, come credo qualcuno sappia, io 4 anni fa, mentre ero in carica da senatore, ho deciso di chiudere. Poco prima della fine della legislatura. Chiedendo anche agli altri di fare altrettanto, almeno tutti quelli che stanno in politica da almeno 20 anni. Purtroppo ho l'impressione di non essere stato molto imitato e mi sono messo a fare altro. Però scusi, Bordoni. Ma venditore, altrimenti non mi potrei permettere Capri. Ah, per cui paga lei a Capri? Assolutamente sì. Quanto costa una stanza in quell'albergo? Scusi, tanto per curiosità, non lo so che mi faccio gli affari suoi, però noi siamo soliti farci gli affari degli altri qui alla Zanzara. Intorno ai 250 euro. 250 euro? Beh, però a Capri non è manco tanto, diciamo la verità. Siamo nella normalità. Scusi un attimo, ma io voglio capire una cosa. Lei è stato radicale, è stato nel Partito Comunista. Cioè, radicale, ha avuto la tessera radicale. È stato nel Partito Alleanza Comunista, Democratica. Poi nel PDS. Alleanza Democratica, come no, certo. Poi è uno dei fondatori dell'Italia dei Valori. Margherita è stato capogruppo al Senato anche della Margherita. Anche una cosa che si chiama Unione Democratica, che non mi ricordo bene. Poi è stato anche in Unione Democratica dei Consumatori, questa era? Mi sono perso. Ti sei perso? No, cioè? Nessun rischio di perdersi. Io ho cercato, come si può vedere da quello che ho scritto. Sì, però adesso, scusi, dopo essere stato in tutti questi 90, di costruire un sistema bipolare in Italia, da una parte il Partito Democratico, non quello che c'è, questa è una imitazione, ma il tentativo di farne uno vero dai tempi di Alleanza Democratica, poi tutto il resto sono declinazioni, l'Ulivo, l'Italia dei Valori, i Democratici dell'Asinello, purtroppo tutti i tentativi che sono naufragati all'interno del mare magno della politica partitocratica, dopodiché ho deciso di mettere il punto. Scusi un attimo, d'accordo, però lei è stato in un sacco di partiti, credeva nei partiti, tra l'altro ha vissuto a lungo, credo, grazie ai partiti e grazie alla politica, e adesso fa un libro che è il manifesto per l'abolizione dei partiti politici, ma non c'è un minimo di contraddizione? È un po' paraguro come posizione. No, non mi sembra. Cioè, adesso lei vorrebbe. A parte che io non sono vissuto grazie alla politica, ma ho fatto l'amministratore per tanti anni, fra l'altro con un'indennità che era paragonabile a quella di un operaio metalmeccanico specializzato. Io per 25 anni ho fatto l'amministratore pubblico. Ma non ho detto che è un crimine. Dopodiché, torno a dire, mentre ero in carica, continuo a ripeterlo, ho scritto una lettera di dimissioni dicendo che ormai la politica in Italia era impraticabile e che occorreva uscire dalla politica per poter tornare a fare politica. E quando è che ha scoperto Grillo? No, non l'ho scoperto. Intanto con Grillo c'è un rapporto di amicizia che dura da più di 10 anni, quindi rapporto personale. Ma oggi è il futuro oggi Grillo è il futuro dell'Italia, Grillo, scusi, perdona. Oggi Grillo è il futuro dell'Italia? Ma guardi, io ho detto una cosa, direi, diciamo, da ex tecnico della politica, semplicemente da cittadino normale, in questo momento fa l'imprenditore, quindi fa tutt'altro mestiere, o meglio. Lei è stato anche ministro, è stato sottosegretario. Ho detto una cosa molto semplice e sono pronto ad accettare scommesse su questo, che cioè in questo momento probabilmente secondo me è già il primo partito in Italia, ma se rimane questo il prossimo anno ci sono solo 3 alternative per i cittadini italiani. E quali? Votare il sistema dei partiti, insisto, non centrosinistra, centrodestra, il sistema dei partiti. Oppure Grillo. Votare Grillo oppure non andare a votare, che è un'altra scelta. Scusi, Grillo qua quanto può arrivare nel 2013 secondo lei? Mi faccio una previsione, dato che... Ma guardi, secondo me supera il 30% ampiamente. La zanzara che arriva ogni estate in città. E la zanzara. Siamo qui con la zanzara in diretta da Atene, David Parenzo, nel cuore dei problemi europei. Sarà una serata molto tormentata in cui Parenzo farà visita ad Alba Dorata, seguirà tutti i comizi di chiusura della campagna elettorale greca, cose interessantissime. A me non me ne può fregare di meno, però cose interessantissime. Però scusi Bordone, lei ha detto prima una frase: parlo da ex tecnico della politica. Ma che vuol dire ex tecnico della politica? 20 anni è stato in politica. No, allora parlo da tecnico, va benissimo. Era soltanto, come dire, per non darmi troppe arie, ma da questo punto di vista, certo, credo di essere un esperto della situazione politica. Dico che la situazione è quella che vi stavo descrivendo. Sì. È incredibile come soltanto da 2-3 settimane sembrano accorgersi i cosiddetti commentatori. Sì. Scusi un attimo, lei però dice che i partiti vanno aboliti? Sì o no? Ma io ho scritto Manifesto per l'abolizione dei partiti politici, questo libro, significa. Tra l'altro è praticamente già esaurito in moltissimi qualcuno dice come dire, riprendendo se mi permette il titolo di un personaggio ben più importante, che è Simon Weil, che nel 43 scrisse il manifesto per la soppressione dei partiti politici. Vabbè, il 43 è stato uno spunto per un pamphlet che provocasse un minimo di dibattito attorno alla situazione attuale. Ma lei si candiderebbe? È una furbata. Si candiderebbe in Parlamento? No, ma nessuna furbata, io non credo che ci sia bisogno di abolirli i partiti attuali. Ma Grillo li vuole abolire, sono però? Sono già aboliti, si sono autoaboliti. Ma Grillo li vuole abolire? Ma cioè vorrebbe che scomparissero questi partiti qua, anche lei? Ma non, questi partiti, guardi, gli attuali partiti sono già scomparsi, glielo dico anche per esperienza diretta, sono in mano a piccole cerchie delle tante caste di cui è formata l'Italia, ovviamente solo quella dei politici, non c'è più nessuna realtà partitica effettivamente esistente, se non un pochino nel Partito Democratico, ma anche lì si va sempre più via via esaurendo, quindi non c'è bisogno di fare molto. Beh, veramente oggi nei sondaggi, quelli gli ultimi proprio di questa mattina, danno il Partito Democratico al 25%, poi il Movimento 5 Stelle 21, poi il PDL al 15%, insomma i partiti certo hanno la febbre anche alta, però ancora sono lì che combattono. Lei sa anche che proprio nel sondaggio di questa mattina si dice che il 45% delle persone dice che non si iscrive al partito del non voto, quindi tutti questi dati andrebbero teoricamente, perché di questo si tratta, poi serve una discussione molto lunga, anche molto tecnica, meglio di no. Fanno i sondaggi divisi della metà, quindi tutti i partiti insieme non raggiungono, se non di poco, la maggioranza della popolazione italiana. Scusi, lei dice che questi partiti sono finiti, però sono quelli che le hanno dato una pensione di 6.507 euro. Sì, ma il problema non mi pare questo. Il problema lei che ci fa questa pensione? Fa l'imprenditore? Come la utilizza questa pensione? Mi dica la verità. Ma guardi, io sono stato, fra l'altro, se lei va a leggersi Repubblica qualche... Ho letto. Mesi fa, io ho detto che per quanto mi riguarda sono perché si rivedano anche i vitalizi dei parlamentari. Ma questo lo dicono tutti, Bordone. Quando lei faceva il parlamentare non lo diceva, pronto, però. Come dire, ho capito, quando lei faceva il parlamentare queste cose qui non le ha proposte. È facile. Come no? Se lei va sempre a leggersi gli atti parlamentari troverà le mie battaglie contro il finanziamento pubblico ai partiti. Su finanziamento d'accordo, ma sui vitalizi non mi risulta. Sui vitalizi non mi risulta. Il quesito, come no? Guardi, c'è il quesito in Cassazione. Sulla riforma dei vitalizi, perché si mettesse e si facesse anche per i parlamentari quello che si fa per qualsiasi persona che lavora. Che ci fa lei con questi soldi? Sono curioso. Deve ritirare la pensione sulla base di quello che è effettivamente versato. Punto. Scusi, lei che cosa ci fa con questa pensione oggi? Così sono curioso. Ma io faccio l'imprenditore, come dicevo. Cioè, le serve o è un di più rispetto a quello che fa? Cioè, è una cosa utile che serve per. Scusi, io ho lavorato 35 anni, sono andato in pensione quando avevo 59 anni e 11 mesi, quindi un mese prima dell'età obbligatoria, quindi è chiaro che ho il diritto, dopo aver versato tantissimi contributi, ad avere un determinato reddito di pensione. Da parlamentare. Dopodiché ritengo personalmente che quello che viene dato ai parlamentari sia esagerato e quindi credo che... Però non si può rinunciare, perché non rinuncia a una parte? È possibile farlo secondo alcuni, Non lo so, per quanto mi riguarda non avrei alcun problema. Senta, ma lei si vergogna un po' di essere stato politico di professione, parlamentare? No, assolutamente, perché dovrei vergognarmi? No, è che ne sono una domanda. Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di partiti di una volta, che io ho combattuto la Prima Repubblica, stavo all'opposizione, ma stiamo parlando di giganti rispetto ai pigmei di oggi. Senta, ma poi ex compagni di partito. Io nel mio libro ho posto una... un quesito, se per davvero, perché si continua a dire anche da parte di persone molto serie, che senza i partiti non c'è democrazia. Allora, tanto non è vero storicamente. Beh, come no? Punto uno. Ma senza partiti come si fa? No, secondo, non è vero di fronte a chi governa la rete? Di fronte a questi partiti, oggi ci può essere, si possono essere forme anche organizzate, diffuse di democrazia, anche senza questi partiti. Senza questi partiti, senza un test veloce di grillismo. Che lei sa cos'è il Tribunale del Popolo per i politici? Guardi, io sono per lo Stato di diritto, punto. Ho capito, però Grillo, lo dica Grillo, Grillo che vuole il Tribunale del Popolo per i politici. No, c'entra. Guardi che quando si entra nel mondo di Grillo... Io ho detto che non ho aderito a nessun partito. Sì, però quella è una chiesa. E un'altra delle cose fondamentali che mi permetto di dire è che in questi giorni molti sono interrogati sul mio eventuale ritorno, per l'amor di Dio. Nemmeno sotto tortura. Senta, anche secondo lei Casini è l'Anthony Perkins delle vecchie mignotte? Sia? Cos'è Casini? È come l'Anthony Perkins delle vecchie mignotte, cioè una sorta di belloccio che dice piace. Grillo. Dice Grillo, è tutte cose sue. Vabbè, io non ho mai usato espressioni di questo tipo, per l'amor di Dio. Guarda. Considero soltanto, torno a dire, tutti coloro che hanno fatto politica negli ultimi 20 anni, delle persone che fanno parte di un sistema ormai sorpassato, il gerontocratico, e dovrebbero andare dovrebbero via tutti. Avere il buon gusto di farsi da parte, punto. Tutti quelli che hanno fatto politica negli ultimi 20 anni. Tutti. I partiti, secondo Grillo, si stanno liquefando in una diarrea politica, ha ragione? Diciamo, si potrebbero usare magari altre espressioni proprio eleganti, mi pare che abbia proprio ragione. Lei è la versione elegante di Grillo, questo si può dire. La mafia non uccide, non strangola il proprio cliente, questo disse una volta. Diciamo che il mio sarto è napoletano, va bene. Grazie. Prego. David, ci sei? Pronto? Ci sei, sì o no? Non c'è, maledetto, maledetto Parenzo. Spero sia stato picchiato da quelli di Alba Dorata questa sera. Lo voglio torturato, seviziato dai signori di Alba Dorata per tutte le disgrazie che ci sta facendo arrivare addosso. Collegamenti complicati, in taxi. Intanto i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Varato il decreto sviluppo, 80 miliardi per la crescita, tagli anche a Palazzo Chigi. Passerà entro il 2013, finita la Salerno-Reggio Calabria. Monti, dal governo un pacchetto di misure organico e robusto per tornare a crescere, ridotto il peso dello Stato. Napolitano, no all'Europa, a due velocità. Bersani, bene il decreto, ma più chiarezza sulle misure. Sindacati critici, la Camusso, al di sotto delle attese. E Bonanni, sugli esodati, la Fornero dice bugie. Dopo il sofferto sì sulla corruzione, nuovi paletti del PDL sulla giustizia. Alfano, se il governo mette la fiducia sulla responsabilità civile dei giudici, votiamo no. La BCE è pronta a fornire denaro liquido alle banche, ma contro la crisi, dice Draghi, all'Europa serve l'unione politica. E oggi le borse respirano, bene Milano. La Grecia domenica torna alle urne, l'Europa guarda il voto con apprensione. Favoriti i conservatori e la sinistra radicale, in gioco la permanenza nell'euro. E agli europei, gli azzurri devono battere l'Irlanda e sperare che Spagna e Croazia non pareggino 2-2, magari mettendosi d'accordo. Prandelli dice no ai sospetti. Davide, ci sei? Pronto! Sì, allora se tu hai coraggio questa sera, se tu hai davvero coraggio, sai cosa dovresti fare quando arrivi dai signori di Alba Dorata al comizio finale prima delle elezioni in Grecia? Ma adesso aspetta che sono a Piazza Sintagma, sta per parlare uno dei futuri forse leader della Grecia. Ma io me ne frego, ma adesso qui ce ne freghiamo della Grecia, però tu se hai davvero coraggio, sai cosa dovresti fare? Cioè le elezioni in Grecia sono importantissime, segneranno il futuro dell'Europa, forse domenica, eccetera. Tu dovresti andare in mezzo al comizio e dire io sono ebreo. Io sono ebreo, anzi, perché non hai portato un fazzoletto con la stella di Davide? Cioè, perché? Paracalò. Ma chi Paracalò? The future of the Greek for Radio 24. What is the future of the Greek? Ma che future? Ha detto che è molto incerto. No, ha detto I don't know. I don't know, no, cioè. No, ho sentito bene, ha detto che è un po' incerto e voleva fare un ragionamento sull'euro, però ho staccato. Allora, la senti questa musica? Sì, sento molto è lontano. È la colonna sonora che Nuova Democrazia ha scelto per questo serata finale. E c'è anche la colonna sonora del Pirata dei Caraibi, ma ti rendi conto? Ma stai dicendo sul serio o mi stai prendendo in giro? Te lo giuro, no, ti do solo notizie serie stasera. Giuro. Hanno scelto la colonna sonora del Pirata dei Caraibi, Nuova Democrazia, è un po' come se Forza Italia scegliesse come colonna sonora quella di Porkis. Hai presente il film Porkis? Sì, sì. Va bene, adesso mettiti in un posto dove sentiamo meglio, però. Ho capito, eh? Ma devo lavorare anche. Lavora, lavora, lavora. Allora, Briatore per... Che succede? Ah, il comizio in Grecia questo qua. Ecco, momento, ma chi se ne frega? Ma non... Samara, eccolo! Momento storico. Aspetta che è la zanzara. Samara, sono in servizio in esclusiva. Ma il leader di Nuova Democrazia, Samaras. Eccoci, ma... la zanzara, scusi, cosa pensa degli omosessuali? Aspetta, ci arrivo, eh. Ecco. Momento storico, Io voglio che ti picchiano stasera per tutti i danni che mi stai procurando in questa trasmissione. Voglio che ti picchiano. Ma senti la musica del Teatro dei Caraibi, senti. Piazza Sintagma piena. Vabbè. Chiudiamo questo, questa follia di Parenzo. È con noi Gianluigi Paragone. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui, benvenuto a questa follia della zanzara di questa sera. Che mi hanno detto basta che non canti. Come basta che non canti? Perché? Chi è che te l'ha detto basta che non canti? Qua ho già twittato, ho detto che mi hai caricato per strada. Eh beh, sì, ti ho incontrato qua sotto che stavi andando a cantare al centro sociale. Ho detto allora passa la zanzara a cantarci qualcosa, no? Allora, intanto voglio farvi ascoltare quello che ci ha detto ieri Vittorio Feltri, perché uno degli argomenti del giorno è Vittorio Feltri chiamato dal Fano. Io poi dico una cosa, se uno che sarà sicuramente candidato alle primarie del PDL si vuole candidare, non è che chiama un suo potenziale avversario, ho chiamato Feltri per dirgli di candidarsi alle primarie, è un po' bizzarro. Sentiamo Feltri che dice che i parlamentari sono tutti straccioni perché guadagnano troppo poco, io guadagno 700.000 euro eccetera eccetera. Il mio reddito annuale lo denuncio regolarmente, quindi non ne faccio mistero, sono 700.000 euro l'anno. Non posso permettermi il lusso di fare il parlamentare perché ho l'esigenza del superfluo e quindi non posso rinunciare all'attuale reddito per andare a prendere con la straccia di indennità parlamentare. Quindi sono quattro straccioni sti deputati allora, direttore. Sì, assolutamente. E poi, poi dice, però, se l'alternativa è quella di finire i giardinetti con i nipotini oppure a spingere il carrello della spesa, allora forse è meglio entrare in Parlamento. Soprattutto sento il bisogno di non andare ai giardini pubblici a leggere i giornali, preferisco farlo. E quindi e piuttosto che andare a casa e poi andare a spingere il carrello della spesa al supermercato su ordine di mia moglie, andrei a fare persino il parlamentare, anche solo per pigiare i bottoni, pur di non tornare a casa. Questo d'accordo, ma ci sono anche i nipotini però. Ma quelli non li voglio neanche vedere. Mi piacciono molto i nipotini, ma per 3, 4 secondi, 5, poi... No, mi sparo piuttosto. Saranno contenti dopo queste dichiarazioni i figli, nipoti, mogli di Vittorio Feltri, moglie di Vittorio Feltri. È così. Vittorio è così. È così. Allora, ma Gianluigi Paragone, vice direttore di Rai 2, conduttore dell'ultima parola. Ma qui cantante. Ma qui cantante. Qui cantante perché uno dei, anzi forse l'unico, abbiamo qui oggi con noi la zanzara, l'unico conduttore cantante. In realtà ci ha provato anche Santoro in questa edizione. Di servizio pubblico a cantare. Però lui l'aveva già fatto prima. Sì? Con Bella Ciao. Ah sì, Bella Ciao, sì. Però insomma Bella Ciao era una cosa così. Non è intonatissimo, sì. Non è no. Intonatissimo. Cioè sei meglio tu? Decisamente. Ma chi... A cantare. Come iniziamo? Dai, forza. Via. Beh, ho detto che sono un pazzo a salire qua, quindi ti faccio un pezzo napoletano di Pino Daniele. Io sono pazzo. È pazzo a stare qui alla zanzara, adesso chiederemo tutto sulla Rai. Io sono pazzo. Voglio essere chi so io, scivo fuori da casa mia. Io son pazzo. Ho il popolo che m'aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da re. E lo Stato questa volta non mi deve condannare. Perché son pazzo. Non ci scassato cazzo. Ma Feltri è pazzo a candidarsi, lo voteresti tu? Paragone, voterebbe mai sì, Feltri? No, sulla fiducia Feltri sì, anche se devo dire la verità, ormai io ho deciso di non votare, la faccio la protesta. Come di non votare? No, di non andrò più a votare per un Parlamento di 1000 parlamentari. Affinché il Parlamento non si riduce dalla metà, ho detto che è inutile andare a votare. Su questo sono d'accordo con con Vittorio, no? È un parlamento di straccioni, io dico per l'indennità e per quello, no, è straccioni a tutti gli effetti, nel senso che per quel che mi riguarda ho combattuto battaglie per superare il bicameralismo perfetto, per avere una riduzione del Parlamento, per avere una riduzione della cosa pubblica, e quindi andare a votare ancora 1000 parlamentari, anche se vi fossero le preferenze, direi basta. Però non secondo me non voterai mai più. Non voterai mai più. Vuol dire che è la ratifica di un fallimento. Ma Alfano che chiama Feltri, ma che storia è? Siamo ancora nel cabaret, dimmi. Ormai Alfano gioca a mosca cieca, lui chi c'è, chi piglia piglia. In un momento in cui sta brancolando nel buio si aggrappa a Feltri in modo che forse, ma non conosce bene Vittorio, si sottrae al morso dello scorpione. Ma Vittorio ti mette in casa un rompiscatole secondo me non è lui che ha partorito questa cosa, è evidente che gli è stata suggerita da qualcun altro. Allora è peggio, perché ma molti sanno che i dirigenti attuali del PDL, non parlo di Berlusconi, non è che vedono Feltri come, anzi alcuni pensano addirittura che Feltri sia uno dei responsabili della crisi del PDL, cosa incredibile. Feltri ha sempre fatto il giornalista, e quando dice che non conosce Berlusconi, ma perché non ti candidi? Ormai Mantana ha detto che forse si vuole candidare. No, Feltri probabilmente si candiderà. Smentirei quello che ti ho detto prima. Cioè il Parlamento. Non le leggo, a maggior ragione mi farei leggere. Rosanna da Modena, 800240024, la Zanzara. Parenzo, ci sei o no? Ma certo che ci sono, mi sono dovuto rifugiare nell'albergo Plaza, perché sennò tu senti solo voci greche e poi ti innervosisci, non capisci che qui si fa la storia, stai parlando ancora di Alfano, qui non sanno neanche chi sia il signor Alfano, chiedo scusa a te, al vice direttore Baragone, ma qui si fa la storia, signor Cruciani, si fa la storia, lei si occupa di omosessuali. Senti, però io vorrei, vorrei che tu chiedessi a qualcuno se sanno che cosa sono i metrosexual. Ho capito, però le grandi inchieste della Zanzara, dici? Sì, Baracalò, sì, le grandi inchieste. Baracalò, sì, esatto. Do you know who is metrosexual? Metrosexual, you don't know, mi hanno sputato in faccia. Ma questo chi è? Samaras, quello che sta parlando? Chi è? Ma certo, quello che sembra essere in testa ai sondaggi. Vabbè, hai studiato, hai letto oggi 4 giornali mentre andavi ad Atene, ti sei fatto così un'infarinatura generale della situazione greca. Signora Rosanna, che ci racconta lei questa sera? Ciao, buonasera ragazzi, siete Bada. Simpaticissimo. No, volevo solo fare una considerazione, sono già una persona di una certa età, no? Scusi, signora Rosanna, ma lei non la fa incazzare il fatto che il nuovo direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia sia uno che è laureato in scienze motorie? Ci dicono che questo qua in realtà è un bravo manager. No, senta, mi lasci dire quello che... Senta, che vuole dire lei? Scusi. Lasci dire quello che volevo dire, cioè che in questi tagli ho capito che bisogna essere comunisti, chiamarsi Agnelli, chiamarsi De Benedetti e Della Valle, e allora va tutto bene. Ma perché, se signora, resto, dice queste stupidaggini? Perché dice queste stupidaggini? Perché? Perché? Ma quale stupidaggini? Ma quali si permettono? E ha ragione Briatore, si permettono di parlare. Ha ragione Briatore, la sentiamo 3 volte. Briatore cosa ha detto? Ha criticato Repubblica oggi a Radio 24 questa mattina dicendo anche Lerner va in Sardegna, a tutti loro piace lo champagne. Questo, cosa vuol dire questo qua? Non vuol dire nulla. Comunque sentiamo Briatore. Gallem che pontifica anche lui in Sardegna, lo champagne a questi qui piace a tutti. Insomma, il problema è che loro sparano sul mucchio e non capiscono che i posti di lavoro in Italia si dovrebbero creare sull'eccellenza, sul lusso, la moda, i musei, il turismo. Loro sparano, gli italiani si sparano sui piedi. E nel nome del progresso, che il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Questo è stato uno dei primi pezzi che ho fatto all'ultima parola. Dotti è medici. Venerdì, Oggi, venerdì. Esatto, quindi devo cantare per forza il venerdì, per contratto. Chi è che ti ha spinto a cantare l'ultima parola, Gianluigi? Un po' Sergio Bertolini, che è il mio principale autore. Sì, sì. Sapeva della mia passione per il canto, poi ho suonato io quando ero poi giovane. Poi tuo padre, l'abbiamo chiamato una volta. Mio papà, sì, però seriamente, canta seriamente. Io ero invece un rocker di quelli con l'ugola un tanto al chilo. Ma com'è che prosegue questa canzone? Com'è che fa ancora? Fa così. Bennato, dotti medici e sapienti. Così giovane, peccato che sia così conciato. Questo è lo Stato italiano. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. No, non è per contraddire il collega professore, ma costui è disadattato che si è subito internato. Permettete solo... Gianluigi Paragoni, il terrore alla RAI per i tecnici. Dimmi la verità, quante rotture di scatole ha avuto dalla dirigenza della RAI per l'ultima parola che si è caratterizzata nell'ultimo periodo per essere una trasmissione che, insomma, no, ha picchiato duro sui tecnici, sulle tasse, e sul governo Monti in generale, e non solo sul governo Monti, per esempio molto sul fisco, su Befera, su Equitalia. Quante rotture di scatole ha avuto? Dimmi la verità. Tante, ma tante, perché adesso c'è questo idem sentire per cui siamo in emergenza, per cui bisogna sospendere un po' tutto, anche un po' meno adesso, sì, adesso un po' meno. Però all'inizio, quando io cantavo Dotti Medici e Sapienti, cioè dedicato ai professori, lì avevano capito che avrei preso una piega non del tutto piacevole, ma questo in termini generali, non solo la RAI, ma anche... Cioè, ma ti hanno chiamato per dire basta con queste critiche a Equitalia, basta con queste critiche a Befera, all'Agenzia delle Entrate, questo no, però diciamo che non erano contentissimi. No, però voglio capire se... Allora, Gianluigi Paragone è stato in corsa per... Non so in realtà se sia stato in corsa, perché c'è ancora una casella vacante nei palinsesti della RAI, ed è il giovedì sera di Rai 2, la rete di cui Paragone è vice direttore. Allora, la cosa che voglio capire è questo. Ci terresti a fare quel lavoro lì? Cioè a fare la prima serata? A fare la prima serata? Il giovedì? Non svenderei però la libertà di dire quello che penso, cioè, però se mi chiedessero ti diamo la prima serata però devi essere un po' più disciplinato, mi tengo tranquillamente la seconda. Questo è un modo un po' paraguru di rispondere, cioè lo so. Beh, sono consapevole, ce l'ho scritto nel nome, ecco. Un po' Paragone di rispondere, però cioè la vorresti fare, diciamo, di la verità. Sì, mi piacerebbe, sì, molto. Beh, voglio dire, sarei un cretino a dire che la prima serata non piace. No, non me l'hanno mai proposto. Non te l'hanno proposto? No, sarebbero anche loro soppazzi. Sarebbero pazzi a propormelo, perché non sei controllabile. Per questo non te lo propongono? Penso di sì, cioè penso che il tipo di trasmissione che abbiamo fatto quest'anno, soprattutto con i nomi indicati adesso, perché non è un mistero che la nostra è stata una trasmissione molto contro il sistema dei poteri forti, contro il dominio delle banche, della finanza, questa Europa a trazione finanziaria. Abbiamo fatto parlare delle persone che addirittura dicevano, apro parentesi, io tra questi, che potremmo tranquillamente uscire dall'euro e tornare ad una moneta sovrana, e tutti questi danni io non li vedo. Comunque siamo andati a ospitare delle tesi molto particolari. Non credo che nella RAI del nuovo assetto, così come abbiamo letto dai giornali, roba del genere possa essere smaltita con facilità. Cioè nella RAI di Tarantola Gubitosi? Di Tarantola è dubitosi. Uno viene da Banca Italia, l'altro viene da Bank of America. Io ho fatto una trasmissione completamente contro le banche. È difficile che mi dicano: oh, ben arrivato. Eccoci, era ora. Era ora. Serata RAI 2. 800 24 00 24. Parenzo, dove sei? Ma come, dove sono? Adesso intanto voglio dirti questo: non so se Paragone potrà continuare a fare la trasmissione contro le banche, visto che ora tutto i vertici arrivano proprio dalle banche. Ma sì, la trasmissione è stata confermata, l'ultima parola, farà quello che vuole, poi adesso non esageriamo. Avanti tutta, Paragone, avanti tutta. Volevo chiederti quante telefonate di politici ricevi dopo le tue trasmissioni il sabato. Hanno smesso. Hanno smesso. Che ormai è inutile, dici. Sì, hanno smesso. Ma che stai facendo lì, scusa? Ma come che sto facendo? Ma qui c'è il voto, ci stiamo aspettando che parli Samara. Oddio, questo Samaras. Allora, c'è lo speaker, che è una specie, c'è lo speaker che sembra di stare a Maurizio Costanzo Show o una cosa di Forza Italia. Sì. Lo speaker che dice vota Nuova Democrazia. Beh, certo, è il comizio di Nuova Democrazia. Il futuro, sto traducendo. Perché il futuro? Perché il futuro? Perché il futuro è in Europa. Per salvare la Grecia bisogna stare in Europa. Questo bene, è... Beh, vieni via. Allora, andiamo a Paolo, provincia di Milano. Dottor Cruciani, buonasera. Vada. Posso? Vada. Sì, sì. Dottor Cruciani, buonasera, e il suo parente ancora, altrettanto anche lei. Le premetto solamente una parola, perché sono brevissimo. Io sono un semplice cittadino dedito al volontariato, ho 75 anni, quindi se anche dico delle cose che forse lei non condivide pienamente, cioè, capisca che sono un cittadino. Beh, dato che lei sia un cittadino, questo non lo metto in dubbio, perché sì, lo siamo tutti. No, ecco, non mi incominci già a colpire così. Ma non lo sto colpendo, sto dicendo che quello che mi viene spontaneo da dire, e mi scusi se qualcosa non corrisponde a quello che lei pensa. Lei, vedo che ogni tanto parla di quella cosa che ha detto Parenzo dei tribunali del popolo. Cioè, sì. Lui ha detto Grillo, veramente, non ha detto Parenzo. Sì. Ecco, no, scusi, Grillo, vede che mi confondo, sì. 75 anni. Parenzo quindi sarebbe al 26%. Confondere Grillo con Parenzo, insomma, è una cosa abbastanza grave. Ecco, bravo, no? Ma comunque, dato che anche Parenzo penso che è una persona onesta e intelligente, penso che non abbia nessuna difficoltà, sì, però a si capire dia una mossa. certe cose anche di Grillo. Allora, quando il Grillo ha detto quella cosa lì, per me, cioè, è quella stupidaggine, lo capisci immediatamente. Sì. Io l'ho preso innanzitutto come una provocazione e poi l'ho preso come un sogno. Perché io penso, sogno. Lei, se non sbaglio, è marchigiano vicino. No, non sono marchigiano, ma lei proprio non sa niente. Lo so, perché seguo molto la sua trasmissione. No, allora, scusi un attimo, Paolo, la cosa è molto semplice. Grillo ha proposto i tribunali del popolo per i politici. Non si sa come, non si sa quando finirà, quando questi partiti finiranno, per la restituzione del maltolto. Si può dire che è una cazzata, cioè una stronzata sesquipedale, una roba assurda che non ha senso. Ma cosa sono i tribunali del popolo? Che cosa rappresentano? Chi li elegge? Che lei fa il suo lavoro, per l'amor del cielo. Per me invece è una provocazione ed è un sogno che dà specialmente. Ma qual è il sogno? Qual è il sogno? E poi mi dirà che dico io delle cazzate. Secondo me le dice lei le cazzate, però vabbè. Mi dica pure lei, il padrone della trasmissione. I tribunali del popolo, ma chi li elegge i tribunali del popolo per giudicare i politici? Mi lasci pensare come un sogno. Il sogno, arrivare a questo sogno. Come un sogno. Lei è marchigiano. Adesso invece paragone ci fa sognare. Io non sono marchigiano, sono umbro. Umbro, mi scusi, volevo dire umbro, ha ragione. Le sue paese. Adesso ci fa sognare paragone con un'altra canzone, intanto. Comincia a strimpellare, così almeno, almeno ci. Ecco, delle persone che hanno rubato, e lei pensi di avere il sogno di dire 15 cittadini onesti che non sono che non hanno che sono incensurati possono denunciare quella persona e poi decidere loro di far ritornare il maltolto, e se il maltolto non ce l'hanno più perché l'hanno speso, di mandarli a lavorare nei servizi sociali. Ma quali servizi sociali? Ma qual è il sogno? Lei sa meglio di me che quando uno c'hai i soldi, tra lo studio legale, gli avvocati, la prescrizione e tutto questo, tutto rimane come uguale. Guardi, lei può avere ragione che nessuno paga, però sulla soluzione finale, forse l'espressione è sbagliata, la soluzione finale che è quella del grande processo ai politici, cioè siamo veramente è una follia, non è che siamo qui, non è che dobbiamo uscire dal Sudafrica dove c'è stato l'apartheid e hanno fatto la grande confessione pubblica, non è la stessa cosa, cioè qui ci sono i processi, c'è la giustizia che funziona più o meno, anzi che non funziona, ma comunque insomma ci sono delle leggi eccetera. Allora, Parenzo? Certo. Che fai? Paracalò, permesso. Che fai? Come? Che stai facendo? Ma ti ho detto, stiamo aspettando, Samara. Però un po', Paragone è un po' un metrosexual. Chi? Un po' un metrosexual. Ma perché anche lui si rà del petto? Beh, tu non sai che cos'è un metrosexual, Gianluigi? No, sai che non sono mica riuscito a capirlo. Non sei riuscito a capirlo, cioè un metrosexual è qualcuno che è un po' più di 1,70 m. Che si cura, no? Uno che si cura abbastanza, sicura. Guarda, un po'. Qua. No, è vero, c'ho troppi braccialetti, la barba, sì, non sei un perfettino. Sei depilato? No, ti devo mostrare, lo so. Invece Mastella dice, no, io metrosexual, no, sentitelo, ieri alla Zanzara. Io no, anzi, poi scopre il petto e fa vedere i peli bianchi, una cosa terrificante è stata ieri sera, sentiamo. Mastella. Lei si fa no, faccia vedere? No, io mi sono lei si rade. No, si depila. Lei si rade. No, non mi rado. Sai che ho fatto? Mo ti dico qual è la cosa. Però si ricopra perché è abbastanza. No, è uno spettacolo proprioioso. Perché io ogni tanto vado a fare un po' di. Cos'è questa? Posso togliere? Ma c'è tutti i peli bianchi. Perché lei si tinge qua? In questo è la mia. È l'unico mio vezzo un po' berlusconiano. Clemente Mastella ieri con noi, poi era scatenato. È forte, Clemente Mastella è fortissimo. Dai, vai. Io devo fare. Vai. Un pezzo di Guccini. Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna fin dentro il vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoniche campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico è ammastrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col digno e l'ignoranza dei primi della classe. Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli orpelli, l'arrivismo, all'amo non a poco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. E accordata verso l'alto questa chitarra. A chi era dedicata questa quando l'hai suonata, cantata, l'ultima parola? Questa, dimmi la verità, questa, però no, qui non ci sono infringimenti. No, perché tanto è a tutti, ci sono dentro i politici, i giornalisti, anzi, cioè... Però scusa, a te uno può rimproverare, è la politica che mi ha fatto entrare in Rai. Sì, beh, infatti, ma io lo so. Poi tu hai fatto un percorso, sei stato praticamente messo in Rai è un'espressione, poi comunque sei entrato alla Rai con la Lega. Sì. A un certo punto hai avuto un rapporto molto stretto. Votato dal centrodestra, ovviamente anche dalla Lega. Esatto, sei stato direttore della Padania, è abbastanza chiaro. Poi hai avuto un rapporto a un certo punto molto stretto con Berlusconi. Sì. E poi a un certo punto hai mollato tutti. Questa è la realtà. O no? Sì, assolutamente vero. Questo però è sintomatico, penso, della mia libertà, cioè la libertà di fare il giornalista, perché io quello che ho sempre fatto è il giornalista, non ho mai ceduto alla tentazione della politica, ho raccontato la politica molto da vicino, ho preso in mano un giornale di partito e qualcuno mi ha detto però di portarlo in edicola. Devo dire che la Padania, quando l'ho diretta, era abbastanza divertente, oltre che a vendere le copie. Davide si ricorda, credo, anche quell'esperienza là alla Padania. Altro che altro, questa scusa. era Samaras. Poi però quando quel mondo che io credo di conoscere molto bene, forse anche meglio di altri, avevo capito che non era soddisfatto né di Bossi né di Berlusconi, l'ho detto chiaro e tondo. Sì, quello hai detto chiaramente che erano il passato. Poi tu puoi anche entrare in un posto votato da qualcuno, certo non avevo chiesto io di essere votato, sono stato votato da qualcuno, non da altri. A quegli altri sono piaciuto quando però ho rotto le scatole a Berlusconi, capito? Perché so che il gioco è fatto così. Ma la Lega ti ha mai chiesto di candidare, per esempio, alle elezioni? No, mi avevano chiesto dopo la Padania se fossi interessato alla politica. Sì? Sì, sì. Prima di entrare alla Rai? Sì, sì, sì. Cioè, dunque, sei stato vicino a candidarti in realtà? No, cioè, mai, perché la risposta è sempre stata negativa. La grande saga Cassano-Cecchi Paone è iniziata così. Nella nazionale italiana, tra i convocati di Prandelli, ci sono omosessuali secondo te? Due sicuri. Ci sono due omosessuali, un bisessuale e tre metrosexual. Cioè, che vuol dire, scusa? I metrosexual sono quei maschi che al momento sono interessati soltanto dalle donne, ma hanno una cura di se stessi, del corpo, dei particolari, più tipica di un bisessuale o di un omosessuale, che può far sperare in sviluppi futuri. Scioffroci squadra. Ho capito. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Sono froci, se la vedessero loro. Mi auguro che non ci sono veramente in nazionale. Con qualcuno di questa nazionale sei andato o no? Sì, uno sì e l'altro l'ho saputo da quello con cui sono andato. Ah, tu sei andato con uno di questa nazionale? Ma è un difensore? Ma perché è una cosa strana? No, scusate, ma per me è normalissimo, per me è normalissimo. E poi i tre nomi sono ancora lì che ballano. A me piace Giovinco, per cui sicuro se mi può piacere che la Cassano, scusa. L'unica cosa che la legge mi consente di dire è che è metrosexual, non c'è dubbio, è perfetto. Allora, per esempio abbiamo detto Giovinco, possiamo dire Montolivo, per esempio, Abate. Perché metrosexual è una descrizione e di tipo estetico, nient'altro. Generale. Come hai cambiato in corsa? Che hai cambiato in corsa? Vai. Questa qui di gamba. Un'idea, un concetto, un'idea. Finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Virginia, il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore. Senatore Gasparri, come è cambiato paragone? Canta pure Gaber. E beh, che vuol fare? Si può anche cambiare la vita, insomma. Beh, no? Ma Gaber è Gaber. Ma è più bravo come cantante o come conduttore, secondo lei? No, tutte e due. Adesso ha mischiato i due generi, quindi così se la politica tira di meno può sempre cantare. Se la musica è in crisi c'è la politica, quindi è meglio di questi tempi saper fare più cose. Senta, ma chi ha sbagliato di più, Cassano o Cecchi Paone? Mi dica la verità. Questo mi sembra uno di quei grandi dibattiti culturali. La mia opinione è molto che importante. Cecchi Paone ogni tanto tira fuori questi argomenti, così si parla di lui. Poi chissà se è vero, se non è vero, chi è il calciatore. Sì. Uno butta la palla in mezzo. E poi Cassano, cioè chiedere un'opinione su qualsiasi cosa a Cassano sarebbe come farsi fare un'operazione chirurgica ed Emanuele Kant, o mettere come centravanti. Vabbè, però mica ha sbagliato quello a chiedere quella cosa lì. No, dico che Cassano, come dire, parla con l'accetta, quindi tira giù i suoi, ma nemmeno alle pretese, cioè quello, lui l'ha raccontato una volta, non so se lui che faceva da ragazzo rubava le autoradio, è passato dal rischio di una vita sbagliata ad andare sul proscenio con grandi guadagni, talvolta essendo all'altezza e talvolta, ce lo ricordiamo, no? Cosa ha fatto? Adesso anche i guai della vita che ha avuto l'hanno un po', come dire, maturato, però insomma Cassano parla in quel modo là. Cecchi Paone invece fa il sensazionalismo. Adesso tutti parlano di Cecchi Paone, anche noi in questo momento. Poi ma che ha fatto? Ha destabilizzato la nazionale, secondo lei, Cecchi Paone? No, ha gettato un sasso in piccionaia. Poi chissà, può darsi che non è assolutamente vero quello che ha detto, no? Uno dovrebbe fare nomi e cognomi. Dopodiché, se il calciatore fosse bravo e ha orientamenti, cioè, ma per lei, per lei... è come il discorso, è come il discorso delle primarie. Uno si presenta alle primarie se deve fare il politico, proprio venire dalla musica, dal giornalismo o da altre parti. Uno, se è nazionale, gioca bene, alla fine mica deve, mica una gara di virilità. Ma lei farebbe piacere, scusate, ma lei, se nella sua squadra, la Roma, uno si dichiarasse omosessuale, sono... se giocasse bene non avrei alcun problema. Vabbè, se gioca male, con la parrucca truccato e fa il pagliaccio, non credo che questo sarebbe uno spettacolo serio. Se gioca male sono contro uno che gioca male. Ma secondo lei è un problema avere nello spogliatoio in una squadra, è un problema avere nello spogliatoio in una squadra una persona omosessuale? Beh, se una persona avesse un comportamento fuori dalle regole, che avesse dei comportamenti di molestia o di altra natura, sarebbe un problema. Se ha un comportamento assolutamente normale, si tiene ai suoi orientamenti sessuali, li pratica come diciamo. Vabbè, perché uno non ci può provare con un compagno di squadra, che, qual è il problema? Perché se uno sta nello spogliatoio deve studiare la tattica, parla della tattica della partita, di altre cose, cioè basta separare l'attività sportiva dai problemi personali. Scusi, senta, ma il biscotto, come si, anche lei pensa al biscotto? Paragone, pensa no, al biscotto? Sono bello. Pensa a tutti quanti pensiamo al biscotto. Oggi c'è stato un eccesso di scommesse sul 2-2 di Croazia-Spagna. Cioè, pare che ci siano state tantissime scommesse sul 2-2. Io ti dico la verità: ho visto tutte e due le partite della nazionale. Con la Spagna mi ero un po' illuso, però con la Croazia devo dire che possono fare tutti i biscotti. Tanto il dolce, il caffè ce lo si è già preso noi, Gasparri? Noi veniamo eliminati, facciamo una figuraccia, poi che tutti quelli convocati siano eterosessuali ci consolerebbe poco, per cui il problema nel calcio sono i risultati. La partita di ieri è stata, come ha detto Paragone, una delusione dopo l'esordio con la Spagna, che ci aveva, come dire, visto il calcio come è andato ultimamente. Ma non è un po' un paradosso che siamo noi sempre ad agitare questo spauracchio, lo spettro del biscotto? Ma guardi, questo ce lo trasciniamo fin dai tempi dei mondiali. Quella storia del Camerun, eccetera, io mi auguro che non sia vera neanche quella. Poi lo sa che c'è tutta una letteratura, libri, trattati, che le devo dire? Io ieri, scherzando, mentre vedevo il secondo tempo della partita, l'altro ieri, anzi no, ieri era ieri. E poi non ho potuto vedere il primo tempo, dicevo, speriamo che Buffon non abbia scommesso contro se stesso. Il fatto che uno lo possa fare come battuta, e anche l'altro giorno che Napolitano, parlando con Buffon, scherzavano su queste cose, dimostra che c'è una caduta di credibilità. Cioè, Napolitano ha sbagliato ad abbracciare Buffon? No, no, c'è il testo di quello che si sono detti, mi è sembrato di capire dall'audio che lui ha fatto una battuta, Napolitano scherzosa con Platini, finiamo per il pareggio, ma era chiaramente una battuta, e Buffon si è inserito su quella battuta dicendo sì, poi sennò qua finiamo tutti male. Cioè, adesso... Ma scusi, lei non è mica uno di quelli che dice che Buffon va a rimanere a casa per quella vicenda lì? Spero di no. Ma no, perché non ci sono ancora adesso certezze. Le voglio dire che la credibilità del calcio, come tutti gli italiani, amo il calcio, seguo il calcio, lo vorrei forte, serio, credibile e vincente. Mi dispiace che venga ridicolizzato, perché siamo tutti qua a giocare tra di noi con le battute, se Buffon scommette, se quello non scommette. Purtroppo il calcio sta rivivendo una di quelle quelle crisi cicliche di credibilità. E vuol dire che non funziona. Io non ho ancora capito, però, tornando alla vicenda di Feltri, non ho ancora capito se a lei farebbe piacere se Feltri entrasse in politica, Se entra in politica, sì. Scusi, però deve entrare in politica, presentarsi alle primarie e continuare a fare politica, sia che le vinca, certamente, ma magari è quello che vuole fare. Io sono sicuro che quello che alla fine verrà spinto. Guardi, ma noi abbiamo tanti giornalisti che sono entrati in politica. Così Giuliano Ferrara fece il ministro per un periodo, poi è tornato al giornalismo. La politica è un'attività aperta a chiunque la voglia fare. L'importante è volerti impegnare. Non è che io vengo, faccio le primarie e poi me ne vado. No, ti impegni e poi, quale che sia il risultato, rappresenti quelli che ti hanno votato. Allora io faccio il politico quando anche abbiamo perso, non è che poi non rappresento quelli che mi votano, sia che vinca sia che perda. Freccero ha definito le due nomine che ha fatto Monti due alieni. Tu come li definisci, Gianluigi? No, sto dicendo a paragone, no, Freccero qui alla Zanzara ha detto proprio nei minuti due banchieri Rai, quindi Bank of Rai era un bel hashtag di Twitter. Bank of Rai, sì. Gasparri, lei come li chiama? No, Bubizzosi lo conosco, so che è un ottimo manager, capace, non si è occupato di quel settore, ma si occupava di telecomunicazioni ed è sempre stato un attento alle ragioni della finanza. La Tarantola mi sembra effettivamente più aliena, perché ha vissuto un altro tipo di vita nella Banca d'Italia. Io ho fatto scelte diverse, credo che la lei abbia chiuso un bilancio inattivo e, come ha detto Alfano ed altri di noi, ce l'avrebbe confermato la lei. Avessi dovuto decidere io, sì. Ma adesso il PD sta facendo uno scouting nella società civile, tra le associazioni. Vabbè, ma se trovano persone adatte, vedete che loro non volevano votare, poi alla fine voteranno e sceglieranno persone di tendenza, perché si è rivolto mica a tutte le associazioni, a quelle della sua area politica. E quindi alla fine se non è zuppa è pan bagnato, a proposito di biscotti, insomma, no? L'altro giorno Gasparri ha fatto una battuta eccezionale sulle liste che si prevedono, che erano, certo, c'erano sui giornali in piena riunione dell'ufficio di presidenza. Io ho detto, siccome ogni tanto lui tira fuori Bertolaso fa il partito dei volontari, la Brambilla fa quello degli animali, quello dei cani, poi ci sono i giovani, poi quelli adulti. Ho detto, guarda, io sono di destra, ho più di 45 anni, ho un cane, in quale lista mi devo presentare? E lì è finito il dibattito su questa cosa, che io ritengo una cosa appare che due liste si faranno alla fine, due liste, una. Ma guardi, io parlo della scomposizione del PDL, poi se Cruciani vuol fare la lista di quelli che ascoltano la radio e si allea con noi, è uno nuovo che scende in politica. No, io non credo che Bertolaso faccia una lista, ma se Bertolaso, che non è un dirigente del PDL, fa una lista e ci vuole alleare con noi, benvenuto. Io parlo di quelli che sono nel PDL, non ha senso fare il PDL. Vabbè, io comunque sarei un tifoso, io sono un tifoso dell'ipotesi, per concludere questo discorso sulla Rai, di paragone alla seconda, alla prima serata Rai 2, così l'ho ammazzato definitivamente. Lei mi pare lei lo vede male. Io sono stato un fan, diciamo così, se no poi si chiama più, di paragone, quando paragone non aveva, questo l'abbiamo capito. Che vuol dire? Adesso no, ma le racconto un episodio. Che episodio? Non svelo un segreto. Paragone una volta, non per la Rai, doveva provare a fare un programma, mi chiese come cortesia di fare da ospite, da test, per registrare una puntata zero che non è andata mai in onda. Io mi sono preso l'aereo, sono andato in un'altra città rispetto a Roma per registrare una cosa che serviva a lui per avere un ospite vero e testare un programma. Quindi è una persona con la quale ho sempre avuto... Ha fatto pure questo, Gasparri, pure questo si è messo a fare. Ma perché adesso va detto una cosa, cortesia, è come se uno chiedesse a Castello di fare una partita... di calcio di beneficenza, Gasparri, un favore a una persona amica su un test che richiedeva un conduttore e un politico in studio. No, un conduttore, ma soprattutto un politico vero, capace di stare davanti alle telecamere, perché va detto una cosa, che Gasparri è sempre disponibile per qualsiasi dichiarazione, per qualsiasi conduttore. Devo dire che a onore del vero, una volta chiesi a Gasparri all'ultimo momento di sostituire un ospite e Gasparri cortesemente l'ha fatto. Quindi è uno che la televisione la mastica ed è un particolare vero. Non era tra l'altro il Rai. Era Mediaset, lo sappiamo. Sì, era una prova di una produzione, quindi voglio dire, come se a lei chiedessero Cruciani. Non andammo male. Sento un'ultima cosa, ma per esempio tra Giannino e Feltri, lei chi preferisce? Anche Giannino sta pensando, ci sono molti giornalisti che stanno pensando di fare politica. Tra Giannino e Feltri, chi preferirebbe? Dice a me. Cioè, le piace di più Giannino o Feltri? Ma io ho buoni rapporti con entrambi. Io li vedo bene come giornalisti e come persone che danno idea alla politica. Francamente non lo so se riuscirebbero bene. Giannino è una persona molto lucida, scrive articoli preziosi, li leggo tutti. Poi da leader politico non lo so, però se vogliono provare... Beh, c'è un po' di protezione qua, quella, No, ma guardi, la vita è piena di... Io credo che non bisogna frammentare. Se entrano per costituire schieramenti, io sono un bipolarista, sono contro la frammentazione che ci dà una l'impressione paese. L'impressione quello che lei dice, non ci devono rompere le scatole, questa è un po' la no, ci possono sostituire, ma io non vorrei fare affettire l'offerta. Le faccio un esempio. Vittorio Sgarbi fonderà il 14 luglio, sì, giorno di anniversario partito della rivoluzione, Gasparri, il partito della rivoluzione. Il partito della rivoluzione non va da nessuna parte, e se incontro Sgarbi dirò: guarda Vittorio, le rivoluzioni non si fanno fondando i partiti, uno occupa le piazze, distribuisce le armi, fa le insurrezioni. Ora, il partito della rivoluzione è una contraddizione in termini. Però Berlusconi pare sia d'accordo, Berlusconi pare sia d'accordo. Ma Berlusconi è un creativo, è un fantasioso, ma io sono amico di Berlusconi, sono un esponente con delle responsabilità nel partito che dirige, mica ho l'obbligo di avere sempre le stesse idee di Berlusconi. Questa frammentazione del partito, ma questa roba qui è come si può dire, questa cosa del partito della rivoluzione, partito della rivoluzione di Sgarbi, una stupidaggine, una puttanata, come la vogliamo definire? 1% se si presenta, credo. Poi se c'erano tanti voti hanno sbagliato previsione. Ce n'era dietro la collina, ci sta la notte crucca ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale, grazie a Gianluigi Paragone, uno dei, anzi l'unico conduttore cantante, vice direttore di Rai 2, l'ultima parola. Sempre divertente. Francesco da Roma, grazie. Buonasera. Vada. Ho telefonato giusto per... mi scusi un attimo. Vada, che sta facendo? Scusi, Francesco. Non sentivo bene. Ah. Ho telefonato giusto per la... Sento un rimbombo, chiedo scusa. Per quello che aveva detto Cecchi Paone, sì. Guardi, secondo me è proprio la dimostrazione che gli omosessuali sono identici agli eterosessuali. In che senso, scusi? Anche nelle cavolate che sparano, e non lo dico ironicamente, lo dico seriamente. Ma guardi che non c'era nessun dubbio però, Francesco, scusi, Cioè, non è che le cavolate appartengono al mondo degli eterosessuali più che al mondo degli omosessuali. Cioè, se ha detto delle cavolate, cioè, non è che io distingo, siccome è omosessuale, allora forse è un po' più intelligente degli altri, non sì, ho capito. Guardi, è proprio quello, e volevo dire qual è, secondo me, la cavolata. È quella dei metrosexual. Cioè, guardi che metrosexual io non lo sapevo, ma è davvero un termine diffuso, io non lo conoscevo, devo essere sincero, cioè, ho subito alzato le mani, ma cos'è metrosexual? Lui ha spiegato che quelli sono quelli tutti leccatini, persone che si curano molto, magari si depilano pure, che piacciono pure al mondo gay, cioè sono delle icone gay, sì. È un discorso indipendente, scusi, sì. È come voler attirare dalla propria parte, sì. Ah, ma lei sta dando troppa sta facendo troppa filosofia su queste parole di Cecchi Paone. Lui ha distinto tre tipi di categorie. Vabbè, una gli omosessuali, l'altro i bisessuali, anche questa abbastanza conosciuta, e poi ha introdotto la categoria che io non conoscevo dei metrosexual, che sarebbero quelli, ripeto, che si curano molto, sono molto, magari usano le cremine, persone molto tirate con le sopracciglia magari ben tagliate, e che sono diventate poi delle icone gay, ha capito? Sono loro a fare le icone. Ripeto, chiediamo a Oscar Giannino se si sente un'icona gay. Ma che c'entra Oscar Giannino? Scusi, Oscar Giannino certamente tutto è tranne che metrosexual. Grazie. Serafino da Ravenna, buonasera. Parenzo? Buonasera. Sì, che fai? Scusi un attimo, Serafino. Allora, sto andando con tutta la troupe, con Damiano Ficoneri, stiamo andando dai signori di Alba Dorata. No, finalmente ti picchiano. Comizio molto moderato nel Pireo, che è uno dei quartieri più popolari. Il Pireo, vedrai, è una regione vicina ad Atene, non è proprio Atene, sì. È una regione vicina ad Atene. Cercheremo di avvicinare gli amici di Alba Dorata, sì, per la zanzara. Però quello che io voglio dire, ho sentito prima tutto Gasparri, sì. Gasparri che parlava della Rai, di Feltri, questi ci hanno paura, bisogna dirlo chiaro, hanno paura di Feltri e Giannino, perché sanno benissimo, Giannino con il suo movimento lo farà, Feltri diventerà uno dei leader del PDL, la prima cosa che faranno questi è rottamare, qualora non si fosse ancora sentito, tutta questa classe dirigente. Ma secondo me Feltri non è che sia là a rottamare qualcuno, se vuole solo divertirsi e basta, questa è la mia impressione, se lo fa è solo per divertirsi, è solo ed esclusivamente per divertirsi, perché ha fatto tutto primarie, nella vita e vuole fare pure questo. Ma quali primarie? Ma ti pare che si presenta alle primarie? Ma di che stai parlando? Dai. Beh, sarebbe meraviglioso, sarebbe una cosa molto divertente invece, darebbe un po' di brio. Fammi sentire Serafino però, fammi sentire Serafino. Sì, a proposito, buonasera dottor Cruciani. Buonasera, dica. A proposito di Feltri, io sono un pedagogista piuttosto anziano. Ah, pedagogista, e allora che c'entra con Feltri, scusi? Le dico che ci sono, pedagogista ho detto. Sì, pedagogista, ho capito. Che si interessa di questioni dell'educazione. Sì. Le volevo dire che ci sono abbastanza studi che possono dimostrare che uno che ha una sopportazione nei confronti dei bambini di 2-3 secondi, sì, come ha detto lui, soprattutto poi se sono parenti, ha dei problemini irrisolti, quelli che volgarmente si chiamano turbe mentali. Lei sta dicendo che Feltri ha delle turbe mentali perché ci ha detto che può sopportare i nipotini solamente per 3 secondi? Dico che se l'ha detto come battuta, no. No, ma non è una battuta, secondo me è vero. Allora, se è vero, sì, è una persona che ha degli squilibri, ha dei problemi. Ma è un anarchico, uno che gli piace stare da solo, soprattutto gli piace stare, cioè non ha, guardi che c'è un sacco di gente che non gli piace stare, essere circondato dai bambini, cioè non è mica obbligatorio, poi naturalmente una cosa è l'affetto, una cosa è frequentare, essere, no, portarli a spasso, divertirsi. Però con loro un po' cinico, un po' duro. Guardi, speriamo, ne abbiamo già abbastanza di disturbati nel Parlamento. Vabbè, adesso lei esagera, speriamo, però scusi Serafino, speriamo che non si presenti, fa già abbastanza danni nel giornalismo. E vabbè, quello però è un suo giudizio, è un suo giudizio, va bene. Lei dice che ha dei problemi risolti delle turbe psichiche, benissimo. Intanto che fa? Paragone è rimasto qui, voleva ascoltare gli interventi. Walter Dall'Aquila, ti stanno aspettando già lui. Walter Dall'Aquila. Buona, Parenzo è rimasto fisso qua. Ma fammelo salutare un attimo Gianluigi, come stai? Bene, bene, tu? Volevo salutarti perché, ma quando ci vediamo una sera a cena, ad esempio, quando vengo a Milano? Ma chi se ne frega, maestro, non è che dovete invitarmi a radio. A Roma no, però, tu ormai sei romano. No, ma perché è tanto che non lo sento, hai fatto bene a evitarlo, bisognerebbe evitarlo più spesso questo paragone, bravo. Guarda che mi ha preso per strada. Ieri, tra l'altro, abbiamo visto il signor Marano. Tu ti sei intrattenuto col signor Marano, per chi non lo sapesse, vice direttore, no, che è? Vice direttore generale. Non ci capisco più niente queste cariche. Allora che vuoi? Ha raccontato dire? Cose molto interessanti off the record. Ma adesso, e tu ovviamente non c'è bisogno di dirlo. E così. Io non so se siamo in diretta. Sì, siamo in diretta. Sì, siamo in diretta. Allora vi posso dare questa esclusiva. Ieri parlando a microfono spenti. No, ma non puoi dire nulla. Ma che cosa ha detto? A microfono spenti. Avanti. No, cosa ha detto? Aperte virgolette, per la Rai ci sono grandi progetti. Ah, così è. Questa è dichiarazione ufficiale di Marano. Poi ha fatto un commento anche sui nuovi dirigenti. Che ha detto? Però questo io. Che ha detto? No, ha detto su nomine importanti, autorevoli, così adesso. Abbiamo capito tutto. Sai che è diventato uno dei nemici di Paragone? Sai chi è diventato? Il capo dell'INPS, il capo dell'INPS, signor Mastrapasqua. Signor Mastrapasqua. Ma no, ma lì non ha sbagliato il signor Mastra, ha sbagliato la signora Fornero nella fornitura dei dati, però mi pare. Ma no, evidente. Sui cosi, ma che c'entra? Non hai capito niente, ma non sugli esodati, sugli incarichi. Ce l'abbiamo? No, certo, c'era un servizio fantastico in cui all'ultima parola hanno inseguito Mastrapasqua in realtà. Ma perché vi ha pure querelato? Che ha fatto? No, lui no, è Befera. Ah, Befera? No, Mastrapasqua, lui no. No, che io sappia no. No? Però sai... Perché c'è perché voi l'avete un po' tormentato sugli incarichi? Perché noi sì. Però molti sono incarichi formali, Cioè sono incarichi così, cioè di come si chiamano, i sindacali... I patti di sindacato. Guarda, l'INPS può anche mandare qualcun altro, Cioè, spettano all'INPS, non è che per forza ci debba andare il presidente, anzi credo che sia difficilissimo fare presidente dell'INPS, quindi faccia bene presidente dell'INPS, e ho qualche dubbio, l'ho anche detto più di una volta, perché io lo vedrei bene dimissionato oggi a casa, anche per il discorso degli esodati. Però non solo lo lasciano lì. Ma lui è un po' risanato anche l'INPS, però, Mastrapasqua, dal punto di vista dei, dei conti, eh? Cioè, non è che ha fatto male. No, per me ha fatto malissimo. Ma comunque, in ogni caso, questi incarichi molti sono formali, cioè sono solo sulla carta, cioè non sono reali, cioè deve mettere delle firme e basta, cioè non è che va là, perde tempo, eccetera. E allora togliamoli. Vabbè, molti sono. Lui è un professionista, cioè un. È un professionista della poltrona. Beh. No, ma è uno che 32, sta a 25. Quanti ce l'ha? 32, 25 sono? Incarichi, beato lui. Questo è la, come la, la, la media dei polli di Trilussa, no? Alla fine c'è la, la disoccupazione sta a zero perché lui ha 25 incarichi. No, dai, a parte le battute. 25 incarichi in un momento come questo, che tra l'altro vanno a sommare la propria retribuzione, credo che siano un quantomeno non opportuno, per non dire una vergogna. Uno degli hashtag su Twitter, così si dice, più recenti di Vito Paragone è stato Fornero a casa. Fornero a casa e Mastrapasqua a casa. La Fornero credo che stia facendo dei grandi pasticci sul welfare. E credo che la, la Fornero, tra l'altro, io l'ho difesa fino a poco tempo fa perché mi sembrava una cazzutissima in grado di combattere con i sindacati. Sì, a parole forte quando si tratta di dirle che ha ragione, quando invece comincia a fare l'elenco delle cose che non funzionano, non risponde mai. Diventa un po' arrogante, ma avete provato a chiamarla in studio? Abbiamo provato più di una volta, non ha neanche mai risposto, quindi tra l'altro difetta anche di educazione, di buona educazione. Maleducata addirittura. Io ho detto difetta di buona educazione. Grazie a Gianluigi Paragone. Ciao. Adesso vattene, va. Beppe da Rimini. Beppe. Sì, Beppe. Oh, finalmente sono fatta, dottor Cruciani. Vada. Ma no, volevo fare prima una domanda perché non ho capito se ha chiamato lei Cecchi Paone o se è intervenuto lui di sua spontanea. Ma che vuol dire? Abbiamo chiamato noi? Che significa se è intervenuto lui di sua spontanea? Non è che l'abbiamo costretto a venire qua. Cioè, Cecchi Paone. Però mi sembra, a parte che poco corretto come personaggio, al di là. Ma perché? Che ha fatto di così strano? Ha un libro in uscita, ha parlato sempre di omosessuali o di froci, come volete. Ha sempre detto quello dove bisognerebbe fare coming out, ha trovato l'occasione per parlare di presunti omosessuali in nazionale. Mica ha detto che sono dei criminali di guerra, non ha mica detto che sono dei banditi, ha detto che sono omosessuali. Qual è il problema? Se anche non fosse vero, non è che ha dato non è che ha gettato l'ombra sulla nazionale. Ha detto che ci sono degli omosessuali in nazionale. Punto e basta, non ha destabilizzato nulla. A me questa cosa mi fa impazzire. Cecchi Paone ha gettato discredito sulla nazionale. Perché? Ci sono, secondo lui, delle persone omosessuali. Allora, anche se non fosse vero, qual è il problema? Dottor Cruciani, però se non mi fa parlare, ha fatto già tutto lei. Io non ho assolutamente. Mi dica. No, non ho capito perché Cecchi Paone, siccome la vede normale il suo status. È poco corretto perché è come se io che vado con una donna che magari è impegnata e mi faccio pubblicità, questo cioè è stato poco corretto. Ma farsi pubblicità, scusi un attimo, farsi pubblicità, cioè non è che di per sé un crimine, cioè bisogna vedere poi se uno vuole dare spazio o non vuole dare spazio, quanto la stampa, l'informazione lo segue, cioè non è un crimine fare pubblicità ad un proprio prodotto, cioè, lo ha fatto molto bene. Siamo qui 20:35, La Zanzara, cari ascoltatori, La Zanzara con David Parenzo in collegamento da Atene, forse è già arrivato al comizio di Alba Dorata, Walter Dall'Aquila. Salve, Cruciani. Dica. Faccio subito, solo una cosa, poi lascio posto a chi è meno eccitato di me. Che significa meno eccitato, scusi? Perché io ho il testosterone caricato a pallettoni praticamente qui. Cioè? Io dico questo, che ce frega di Cecchi Paone a noi, che ce ne frega di Cecchi Paone? E che ne so? Con chi ha copulato, con chi ha avuto rapporti spermatici, non ci interessa perché la notizia vera del periodo, quella che merita importanza, è che Sara Tommasi e Nicol Minetti si sono buttate nel porno. Mm. E se loro si buttano nel porno io mi butto su di loro. Bravo Walter, complimenti. Questo conta, che ce ne frega di Cecchi Paone che poi ha influenzato i giornalisti che sono andati a porre in conferenza stampa quella domanda a Cassano sui metrosessuali, che Cassano non ne riesce a trovare le differenze fra una donna e una bambola gonfiabile, non lo sa quali sono le differenze Cassano, perché Cassano appena vede un buco ci si ficca, capito? Calmo, quindi, stia calmo, calmo. Comunque sono io. Sono arrapato per questo fatto del film porno, quindi ho mandato la mia candidatura ovunque, registi, scenografi, cameraman, pure cameraman di produzioni porno italiane. Sì. e sono stato modestamente preso, ecco. Sì. Perché d'altra parte ho sbaragliato la concorrenza. Beh, mi pare evidente. Arriviamo a dunque, in quel manipolo che mi, di pseudo, vabbè, bravi lì a masturbarsi, che non è fregare il posto. Calmo. Insomma, questo c'era pure Cecchinone, almeno così si dice, perché quello predica bene e razzola male. Secondo me è ancora tentato, c'è ancora una pulsione verso, diciamo, quella, capito, quel triangolino che sappiamo bene. Lei dice, Beh, penso di sì, perché lui c'era lì, insomma, quando ha saputo che la Tommasi, capito, era disponibile, sì, a questa pornografia spicciola, sì, e si è fatta, ha provato a fregarmi, a gabbarmi il posto. E vabbè, è un racconto, come dire, no? Un racconto piuttosto realistico, o sbaglio? Molto realistico, e quindi la verità quale di tutto questo? Che di Cecchi Paone non ce ne frega nulla, perché siamo interessati a ben altre forme e rotondità, e sappiamo bene quali sono. Bene, grazie. Andiamo a... Eravamo con Beppe da Rimini, Sì. Allora? Pronto? Sì. No, siccome adesso, tra l'altro, io non voglio crocifiggere nessuno, dico che un giornalista come Cecchi Paone è diventato una velina, più che altro, perché si vanta delle sue conquiste. Riguardo lo screditare la Nazionale, penso che un personaggio come il capo dello Stato, nonché Napolitano, che scende negli spogliatoi e abbraccia Buffon, che si è giocato 1,5 milioni di euro in scommesse, penso che abbiamo già detto tutto. Questo è lo screditare, non è tanto perché c'è qualche omosessuale all'interno della Nazionale, è un loro problema. In più i media vanno a fare l'intervista a Cassano, che sa 3, 4, 5 vocaboli, mi sono stupito che non ha dato, mi scusi il termine, dei ricchioni, che forse era più adatto al suo ceto sociale. Quindi, ripeto, stiamo facendo un gran cancan, non capisco il perché. Mi ha disturbato la mancanza che Cecchi Paone, insomma, le sue storie d'amore se le può tenere per lui, insomma. Ma lui non ha parlato di storie d'amore, ha parlato, sì, ha avuto una storia con uno della Nazionale, d'accordo, però ha parlato Cucciani, ha detto, ma dovrebbe essere normale, lui ha detto, io lo dico perché dovrebbe essere normale dirlo, invece non lo posso dire in maniera esplicita, chiara, perché oggi è impossibile dirlo per una serie di problemi. Beppe, grazie. Parenzo, ci sei? Allora, guarda, sono arrivato qui dai ragazzi, dei signori, insomma, di Alba Dorata. This is the radio, Radio 24, hello, from Italy. What do you think about the future of the Greek? Greece. Parlo solo greco, questi. Però hanno la faccia arrabbiata. Ok, after we make the... Ma che stai facendo? No, stavo cercando di intervistarti in esclusiva per la radio. Beh, portami uno arrabbiato come una bestia, magari gli dà pure un cazzotto in faccia. Non capisco perché sono comunque tutti vestiti di nero. Beh, sì, come non capisci. Questo va bene. Però hanno anche dei caschi. Beh, adesso non è che tutti avranno dei caschi, no? Tutti hanno questi caschi e hanno queste nelle mani, quelle per tirare i pugni alla quelli che si usano nella box, no? Sì. Cioè, io non capisco, se uno normalmente fa politica, sì, non è che vai in giro con le cose. Ma quello sarà il servizio d'ordine. Quello sarà il servizio d'ordine. Sì. Ma parla con qualcuno, presentami qualcuno arrabbiato. Se c'è qualcuno che parla italiano, lo passo. No, ma anche una parola. What do you... Yes. You ask about the future of Greece after the election. Yes, yes. For your party. For our party. Yes. We think we are going to be strongest. Strongest. Strong. Più forti, sì. About this election. Sì. And we are going to prepare the Greek people for a new future. But why? Vabbè, ma questo è scontato. Che dice, che pensa degli immigrati? Chiedi che pensa degli immigrati. What do you think about the immigration? The immigration is a big problem for Greece, because they're stealing our lives, they're stealing our future of our kids, and we want to throw them not all, we want to throw the criminals first, and then... But not all the immigration, are criminals, no? It's impossible, it's impossible to throw all the immigration now. E lì che pensa degli ebrei, dei Jewish? Beh, adesso questo... Dai, chiedi, We want to throw first of all the criminals, and we keep only the family immigrations, the people who wants to work and they have a future. Ma digli, è vero che vogliono mettere un confine, vogliono mettere... True that you won't make a border with the bomb, really? We want to stop the, with the bomb, the coming of with the border? Not legal immigrants in Greece by make but a not new possible mine. Make the bomb in the border. Listen to me. If you make a wall and you put a sign which says there is a dog, be careful. You don't go inside, even you don't see the dog. Ho capito. Dili che pensa di Hitler. Che pensa di Hitler? We put the mines and we make signs, so don't come because there is a mine. Even there is a mine, nobody comes inside. Understand me? Yes. That's it. Okay. Great. Dili che pensa. Ho capito tutto. Se ci sono le bombe e se c'è un confine ben munito, è difficile passare. Sì. Insomma, abbastanza chiaro. Adesso gli altri tre ragazzi. No, ma dimmi che cosa pensa. Dili. What do you think about Hitler? About Hitler. No, aspetta un attimo, che devo fare anche l'intervista adesso, poi c'ho anche la telecamera, si stanno innervosendo i ragazzi. What do you think about Hitler? No, aspetta un attimo che vi sposto, che ti sentono questi qui. Ma aspetta, dai, aspetta, su, ma che sentono al telefono? What do you think about Hitler? Hanno detto che Cruciani è un immigrato prima. Ma dai, su, ma in Grecia che ne sanno della zanzara? Ha detto Cruciani is a terrible pericol for Greece. Dai, quindi chiedi che cosa pensano di Hitler, le camere a gas. Forza. Sto cercando di Vabbè. Capire. Intanto è con noi Pasquale, detto Danilo Quinto, ex tesoriere dei radicali, autore di un libro che uscirà domenica, da servo di Pannella a figlio libero di Dio addirittura. Quinto, buonasera, come sta? Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Senta, posso Quinto, correggerla un attimo, non esce domenica il libro. Quando esce? Tra 10 giorni. Sarà presentato al Festival Nazionale di Federcultura che si tiene a Peschiera del Garda, perché il libro è stato pubblicato da Federcultura. Bene. E si profila un così grande successo che l'editore stamattina mi ha sorpreso dicendo che sarà in tutte le librerie italiane tra 10 giorni piuttosto che a settembre, come era stato preventivato. Scusi Quinto, lei da quando è che è diventato molto molto credente? E lei? No, ma una domanda. No, ma lei? Ma io non sono abbastanza ateo, direi. Ah, lei è ateo, no, giusto per capire con chi mi confronto. Sì, no, ma non c'è un confronto qui. Come non c'è un confronto? Stiamo cambiando delle idee, quindi c'è un confronto. Nel senso, non c'è necessariamente uno scontro, diciamo, questo volevo dire. Questo no, intendevo. Ma io non ho nessuna intenzione di fare uno scontro, me ne guardo bene. Dunque, lei sa che la conversione è un processo che non si può governare. Sì. È una cosa che nasce dentro e si risponde alla chiamata di Dio. Sì. Ma d'accordo, però vuol dire, quando è che è maturata questa cosa? È maturata nel momento in cui Dio mi ha tirato per i capelli da una situazione che per me era una realtà che ho frequentato per 20 anni, consapevolmente, perché ho avuto i radicali? Che ho avuto, certamente, ho avuto incarichi di tesoriere sia nazionale che transnazionale dei radicali, e a un certo momento Dio si è accorto di me, ha usato gli strumenti che Dio usa per far intendere a una persona che lo vuole dalla parte sua, e io ho assecondato la scelta di Dio. Cioè, Dio si è accorto di me. Parenzo, hai capito? Sì, ho capito, è un delirio. È il classico, è un delirio. Vabbè, per carità, io rispetto chi trova la fede. Beh, rispetta, luce, no? Rispetta, perché è un delirio? Rispetto, scusa. Ma no, rispetto chi trova la fede e la luce, ma non si sputa sul proprio passato, sulla propria vita, sulle proprie passioni del passato. Non bisogna per forza rinnegare quello che si è fatto. Insomma, mi pare, col bene che posso volere a questa persona che ha ritrovato Dio, che ha trovato la fede, ma come si fa a dire, a sputare sul piatto nel quale si è mangiato, lottato con i fratelli radicali? Cioè, mi pare una cosa veramente forte. Scusi, Dio si è accorto di lei prima o dopo? Scusi un attimo, Quinto. Scusi, io ho sentito un termine che da credente, da cristiano, non è nel mio vocabolario. E quale diciamo. Io non sputo in nessun piatto nel quale ho mangiato. Però lei in questo libro fa delle critiche molto forti e radicali, Mi scusi, io ho dedicato 20 anni della mia vita, del mio onesto lavoro, sì, a idee nelle quali... Beh, onesto, lei è stato condannato per la produzione in debito di 230.000 euro, bene, qualche piccolo peccatuccio l'ha fatto. Il capitolo della condanna, allora discutiamo della condanna, benissimo. Allora io ho lavorato 20 anni, poi dopo 20 anni di lavoro, dopo la conversione che ho maturato, ho deciso, visto che Pannella voleva negare i miei diritti di lavoro, è come se lei da ateo, come se lei da ateo lavorasse 20 anni prestazioni occasionali, non avesse una pensione, una... Ho capito, ma non è che si può... Non avesse pensione e liquidazione e non facesse niente. Io che cosa ho fatto? Scusi. Ho aperto una causa di lavoro, non avevo né acquistato gioielli o case al Colosseo o lauree, ho investito in Tanzania, non possiedo patrimonio immobiliare. Ho capito, ha pagato multe, bollette, centri, quasi leggo centri, ristoranti, cose del genere, ma va benissimo. Mi faccia dire, come sono accusati altri tesorieri dei partiti, quindi io non ho... Quinto, nulla, 230.000 euro. Nulla. Non è che l'ho deciso io, è il tribunale che l'ha condannata. A causa di lavoro, il signor Pannella ha deciso di denunciarmi per appropriazione indebita. Le do una notizia, quindi lei stasera fa uno scoop, e anche chi ha parlato prima, cui non so chi sia, e dice che io ho sputato nel piatto, le do una notizia, io sto preparando rispetto a quella condanna, perché è un mio diritto farlo, e sto preparando un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Adesso abbiamo chiuso il capitolo della condanna, mi vuol chiedere qualche altra cosa, sempre da ateo? Un attimo solo, traffico, perché c'entra ateo adesso? Cioè, non è che il confronto è quello, ateo. E perché io mi devo, so con chi mi sto confrontando, lei si è dichiarato ateo? Ma io non mi sono dichiarato ateo. Mi vuol chiedere qualcosa sul libro che ha il titolo Da servo di Pannella, figlio libero di Dio? Allora Quinto, innanzitutto io le chiedo quello che mi pare. Allora Quinto, io innanzitutto le chiedo quello che mi pare, poi dopodiché ma è vero come lei racconta in questo libro che Pannella fa lo sciopero della fame e della sete, ma con una scorta di pipì già pronta da bere, bollita e sterilizzata nel frigo? Guardi, questo non è un libro di pettegolezzi, io su questo terreno non ci sto. Ma che vuol dire? Questo non è un libro di pettegolezzi. Lei lo racconta o no? Lo racconta o no? Questo libro è un libro di una persona che intende conquistarsi il paradiso, la sua verità e la sua libertà, perché questo deve fare un cristiano. Quindi io ho inteso in questo libro, che conta 208 pagine, che è stato pubblicato da un editore coraggioso, che è Giovanni Zenone. Vabbè, ho capito, ma è vero o non è vero questo, questa cosa qui? Andare sul sito www. Oddio, Quinto, però abbia pazienza. Mi faccia fare le mie domande, poi non è che lei è qui a fare un comizio. Sto rispondendo alle sue domande, io non sto sul terreno dei pettegolezzi. Ma se è lei che li ha scritti? Questi sono stati riportati dal libro, ma il libro conta 208 pagine. Ma che vuol dire? Il libro racconta, ad esempio, la storia di Quagliarello. Ma lei parla anche dei suoi figli? Vicepresidente del PD. Siamo nel tema, guardi. Sì, allora? Siamo nel tema. Benissimo, ok. Dalla storia del vicepresidente del Partito della Libertà, che mi dice che Pannella non conta un cazzo, ma che loro, cioè il governo Berlusconi ex, lo fa divertire dandogli decine di milioni di euro all'anno, così come ha fatto i governi di centro-sinistra. Così come fanno i parlamentari cattolici, da Eugenio Roccella a Giuseppe Fioroni e decine e decine di altri, che consentono alla voce dei radicali, cioè a coloro che manipolano la coscienza collettiva del paese, portandolo sulla deriva relativista, consentono a guardi, lei si deve documentare su che cosa significa conversione. Sì. E una volta che si è convertito ha scoperto che i radicali erano il male assoluto. Con tutta umiltà, le dico di documentarsi che cosa vuol dire conversione. Sì, ma lo so benissimo cos'è la conversione. Questo libro io l'ho fatto. Ma lei ha parlato anche di Pannella che va in mano nella mano con l'ultimo dei suoi fidanzati, cioè c'è pure del pettegolezzo o no? Prego? È vero o no che ha raccontato di Pannella che si presentava alle riunioni mano nella mano con l'ultimo dei suoi fidanzati? Certo, c'è scritto nel libro. Dunque è un libro che racconta anche questo. È un libro racconta che anche questo, perché Pannella, io ho tanto rispetto per gli omosessuali, sì, ma Pannella è portatore di un'ideologia omosessuale. In che senso? È un fine intellettuale, lo fa in modo che manifesta e manipola le situazioni in modo tale che queste situazioni possano rappresentare per coloro, perché sono i suoi accoliti, delle prebende. L'ha fatto sempre, costantemente nella sua storia. Ma questo siamo a livello, e Pannella stesso a dichiarare che è così. Ma una cosa è essere così e bisogna avere tutto il rispetto. Da cristiano posso dire che essere omosessuale è un peccato. È una cosa... E io prego per gli omosessuali, così come prego per i miei nemici come Pannella. Perché prega per gli omosessuali? Che ha tentato di distruggere. Perché prega vita, per gli omosessuali? Scusi. Perché prega per gli omosessuali lei, Quinto? Perché considero un peccato essere omosessuali, ostentare la propria omosessualità, come dice San Paolo nella lettera dei Romani. Guardi, io non sono come Pannella, che saccheggia frasi dell'Antico Testamento e quindi tende a imitare Dio. Ma poi lei ha scritto impone i suoi fidanzati come futuri dirigenti. Pannella, per Mabonino. Prega. Prego per i miei nemici. Parenzo, perché so che Dio mi ha dato questo compito di pregare per loro. Io voglio la loro conversione, si devono convertire loro e tutti i loro accoliti che hanno voluto distruggere una famiglia, sì, la mia famiglia. Sono stato offeso, ma in che modo? Mi ha chiamato impostore, truffatore. Beh, ma scusi, ma lei truffaldina. Ma lei li ha sottratti questi soldi? Sono io che non voglio lui come interlocutore, perché io mi devo preservare dal suo male. Vabbè, lei mi sembra che sia sulla strada di usare di quei predicatori americani ultra cattolici, eccetera, eccetera. Su quella strada lì. Io sono un grande peccatore piuttosto che predicatore. Sono un grande peccatore. Essendo un grande peccatore, sì, devo fare di tutto per testimoniare il fatto che la mia parola, sì, è quella che leggo sul Vangelo. Bene. Lo consiglio anche a lei il Vangelo, sì, mi permetto, sì, di farlo. Per carità, la ringrazio, ci dobbiamo salutare, ci sentiamo domani, anzi lunedì 18:30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.